24 mattino. L'ultima volta per quest'anno che sentirete questa sigla. Auguri, naturalmente l'augurio per il 2015 viene esteso a tutti quelli che ci ascoltano in situazioni particolari, chi ci ascolta dagli ospedali, a chi ci ascolta sapendo che passerà il Capodanno da solo. L'Istat ha segnalato infatti che tra le famiglie in crescita ci sono quelle mononucleari. Per mononucleari e composte da una sola persona si intende spesso anziani soli. Un augurio particolare a tutti loro. Oggi parleremo di giovani, proprio così. Passiamo da un estremo all'altro. Perché? Perché sono rappresentati sui giornali, e Mauro Meazza, dirigente del Sole 24 Ore qui davanti a me, me lo può confermare. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno Irene, auguri anche da parte mia per tutti. Sono rappresentati sui giornali, Mauro, solo in casi di abusi estremi, di alcol, di droga, bullismo, atti criminali. Così sono rappresentati i ragazzi, e spesso si ignora tutta una realtà di ricchezza, di anche imprenditorialità addirittura, che ruota intorno a loro. Oggi parleremo proprio di questo, visto che potenzialmente, anche se amano dormire durante le vacanze, potrebbero essere all'ascolto. E perché lo facciamo? Perché ci sono due insegnanti, anche se non sono gli unici, ma noi avremo ospiti loro, che sono entrati nella lista dei migliori professori del mondo, due insegnanti italiani. C'è una specie di Nobel per il miglior professore. Mauro, tu ricordi un insegnante che in qualche modo ha lasciato il segno, così è rimasto memorabile, ti ha trasmesso qualcosa di particolare? Devo dire più di uno, ci devo pensare, se devo sceglierne uno solo sono in difficoltà. E ne riparleremo alla fine della tua rassegna stampa, perché questo facciamo adesso su Radio 24, di ragazzi, di giovani, di insegnanti. La domanda la giriamo anche a voi, naturalmente, riguardo a cosa ricorderete, cosa fa di una scuola una buona scuola, al di là della retorica e degli slogan, cosa fa di un insegnante qualcuno che merita di essere ricordato. E voi, insegnanti all'ascolto, avete forse un allievo da cui avete imparato qualcosa? Questi gli argomenti di 24 mattino dalle 8:15. Scriveteci al 349 238 6666, oppure ci telefonerete all'800 24 00 24. Rassegna stampa, buon lavoro Mauro Meazza. Grazie Irene, grazie, ancora tanti auguri da parte mia per questa ultima rassegna stampa del 2014, gli ultimi quotidiani che troviamo in edicola quest'anno. Gli quotidiani poi, come sapete, torneranno in edicola il 2 di gennaio, perché come d'abitudine il Capodanno è senza i quotidiani. Allora, naturalmente la tragedia del traghetto Norman Atlantic è ancora oggi, ancora per questo 31 dicembre, l'argomento più seguito e più evidenziato nelle prime pagine dei giornali, talvolta anche con coloriture, sottolineature di tipo politico, ma sostanzialmente quello che ci si chiede in queste ore, lo avete ascoltato anche nel giornale radio che ha preceduto questa rassegna, è veramente qual è la contabilità, la drammatica contabilità dei dispersi, delle persone che potrebbero aver perso la vita nella tragedia del Norman Atlantic. Allora, naturalmente si comincia anche a cercare di indagare sulle responsabilità. Emerge tragicamente di nuovo la vicenda dei clandestini, cioè di coloro che cercano di raggiungere il nostro paese, ma più genericamente l'Europa, in modo clandestino, quindi nascondendosi nelle stive, nascondendosi nei tir, nascondendosi nei camion. E questa è poi uno dei motivi, forse il motivo principale, per cui non si riesce ad avere un conteggio preciso delle persone che sono state coinvolte da questa tragedia. Corriere della Sera sceglie un titolo di ricostruzione: dal rogo ai soccorsi, tutti gli errori, 11 vittime, almeno 2 italiane. E poi il procuratore di Bari, che appunto ha detto ieri, mancano notizie di 179 persone. 11 vittime e tutti gli errori commessi nella tragedia del traghetto Norman Atlantic, i naufraghi sono in Puglia, però appunto mancano notizie di 179 persone. Tra l'altro si aggiunge quasi sotto traccia, considerata la portata anche della vicenda del Norman Atlantic, un'altra vicenda di una nave carica di migranti che pure è alla deriva in Adriatico. Ancora sul Corriere della Sera una notizia che tiene banco su diverse prime pagine, ne parleremo poi affrontando anche le pagine del Sole 24 Ore, del nostro quotidiano, l'Istat che vede spiragli, recessione verso la fine. L'Istat sostanzialmente ieri ha diffuso parole ottimistiche per quanto riguarda l'andamento della produzione industriale, della congiuntura economica in genere, ma con un gigantesco ma su quel che riguarda la ripresa dell'occupazione. Lo vedremo più in dettaglio. Sul Corriere della Sera ancora vicende di pensioni, il 2015 potrebbe essere un altro anno, chissà, di manutenzione della previdenza dopo un intervento che è di pochissimi anni fa, perché solo nel dicembre del 2011 abbiamo appunto rivisto le regole. Andranno a regime alcune di queste nuove regole varate nel 2011 che avevano un certo lasso di tempo. Tra l'altro c'è il doppio problema per il 2015 della rivalutazione per gli assegni dei pensionati e anche per l'opzione donna. Il Corriere della Sera appunto ricorda le vicende pensionistiche, pensioni, il caso dei pagamenti, perché appunto essendo andato male l'anno dal punto di vista economico e quindi non c'è una rivalutazione ma una svalutazione sostanzialmente del prodotto interno lordo, questo si rifletterebbe, ma l'INPS ha bloccato la vicenda in attesa di chiarimenti, anche sugli assegni pensionistici. E poi il Tesoro verso il no alle donne, naturalmente non è un atto di misoginia, si riferisce alla estensione della cosiddetta opzione donna, cioè una facoltà concessa nella riforma varata a dicembre 2011 per un trattamento più favorevole nel ritiro, nell'età, per quanto riguarda le donne, ma con una penalizzazione economica. Si chiama in gergo appunto la cosiddetta opzione donna, riferisce del problema se estendere o meno questa opzione anche nel 2015, oggi il Corriere della Sera. E poi naturalmente sulle prime pagine anche l'attesa per il discorso del presidente Giorgio Napolitano questa sera. È un discorso che si attende in qualche modo improntato alla fiducia, così ad esempio Lina Palmerini sul Sole 24 Ore, nel messaggio di Napolitano la parola chiave della fiducia. Oggi quello che sarà l'ultimo discorso di Napolitano, appunto, anche se non ci dovrebbe essere una data per le sue dimissioni. Dal Corriere della Sera passiamo a Repubblica, dove il titolo principale è una strage sul traghetto, aumentano i morti tra italiani nell'elenco delle vittime, poi il procuratore di Bari che dice nelle stive decine di clandestini, sotto accusa finiscono i sistemi di sicurezza e le scialuppe. E poi l'altra accusa, l'altro rilievo, ci sarebbero stati a bordo più passeggeri e più camion di quanto consentito. Grande foto centrale per Repubblica, così come per il Corriere della Sera, dei naufraghi che avvolti da coperte appunto sbarcano a Brindisi, arrivano a Brindisi. E poi un grande richiamo sempre in prima pagina di Repubblica per l'altra notizia attesa per questa sera, cioè il discorso di Napolitano. Napolitano, il discorso dell'addio, stasera l'annuncio delle dimissioni. E per il PD, per il Colle, per la successione, per il successore di Napolitano, cresce la carta Prodi. All'interno poi su Repubblica appunto si parla di questa, del possibile successore, di quelli che potrebbero essere i successori di Giorgio Napolitano al Quirinale. Poker di papabili al Colle per il Partito Democratico, Prodi risulta in ascesa tra i renziani, ci riferisce Francesco Bei nel suo retroscena. Gli altri candidati che vengono evidenziati nell'articolo di Francesco Bei sono il ministro, l'attuale ministro della cultura Dario Franceschini, poi Walter Veltroni, fu primo segretario del Partito Democratico, e poi Piero Fassino, che è attualmente sindaco di Torino. Questo per quanto riguarda naturalmente non il complesso dei nomi che potranno emergere per sulla successione per il nuovo Presidente della Repubblica, ma in particolare il Partito Democratico, appunto, con un nome su cui possano convergere tutte le indicazioni all'interno del Partito Democratico. Questo su Repubblica, il retroscena su Repubblica. E passiamo alla Stampa, perché volevo ancora dare un po' di spazio alla vicenda del Norman Atlantic, ma soprattutto oltre alle vicende di cronaca che avete ascoltato e ascolterete ancora nei giornali radio, nei collegamenti che Radio 24 continuerà a proporvi anche in questa giornata, volevo dare spazio, dicevo, anche a queste vicende dei clandestini, perché come accade, quale doloroso corollario in queste vicende, poi emergono anche queste storie umane che cerchiamo di dimenticare, di sopire, di non avere troppo sotto gli occhi. La stampa ci propone nella pagina 5 un resoconto di alcune di queste disperate fughe per l'Europa, nascosti nei tir sulle navi, il racconto di Niccolò Zancana, dalla Grecia all'Italia e la rotta alternativa di afghani, pakistani, siriani, e per questo sul Norman Atlantic, scrive la stampa, potrebbero esserci altri morti. Si tratta di popolazioni che sono in fuga appunto da territori devastati dalla guerra, che cercano in qualche modo di mettersi al sicuro in primo luogo per la loro vita, non tanto appunto solo per questioni di migliori condizioni economiche. La prima pagina della stampa, naturalmente, nel suo titolo dà spazio, così come molti altri quotidiani, ai tre italiani che potrebbero che sono tra le vittime, e poi il forse altri corpi sul relitto, ovvero il riferimento alle dichiarazioni del procuratore di Bari. Appunto, ancora già in prima pagina si segnalano le storie dei clandestini che si nascondono nei tir, si nascondono nei camion all'insaputa degli stessi guidatori dei camion spesso, e quindi affrontano questi viaggi disperati che durano giorni e giorni in condizioni disastrose, senza poter mangiare né bere, pur di sbarcare, pur di poter arrivare in Europa genericamente, nelle nostre coste, nel caso della Norman Atlantic. E poi sempre la stampa dà spazio all'attesa per il discorso del presidente Napolitano, addio con un messaggio di fiducia al paese. Anche qui torna la parola fiducia, come vi dicevo, come già sul Sole 24 Ore. Per la stampa poi si parla di Marcello Sorgi, firma un editoriale che parla di un eccessivo ottimismo invece del Premier, cui si riferimento è a Matteo Renzi e alla sua conferenza stampa. Avvenire ancora per la Norman Atlantic, il traghetto Norman Atlantic, il mistero dei passeggeri fantasma, le 11 vittime accertate. E poi da Avvenire, ma ve lo segnalo solo in un flash perché tra pochissimo ascolteremo le previsioni del tempo, sempre da Avvenire c'è una pagina che riepiloga i nodi istituzionali, i nodi della politica, ma che poi riguardano anche noi, per il 2015. In primo piano. E allora ancora buona giornata e ancora auguri da parte mia, da Mauro Meazza, e mi scuso perché ho annunciato le previsioni del tempo, ma giustamente Peter Bescapè, che questa mattina mi guida dall'altra parte del vetro, mi dice no, purtroppo stamattina non abbiamo le previsioni del tempo, e allora per rimediare a questo svarione le dico io le previsioni del tempo e le prendo dal Messaggero, perché il Messaggero oggi segnala con una pagina interna l'arrivo del grande freddo, pioggia e neve, ecco il grande freddo, temperature impicchiate in tutta Italia, imbiancato anche il sud. La situazione più difficile, ci segnala sempre il Quotidiano di Roma, nelle regioni adriatiche ci sono già disagi al traffico, e poi naturalmente c'è l'allarme per i senza tetto, perché a Roma già un clochard è morto assiderato. Difficoltà sulla 24 e sulla 14 anche per il traffico aereo, per i voli su Milano e Palermo. Nelle prossime, il lavoro del Presidente poi curato da Valeria Arnaldi, la viabilità appunto si attende difficile, specialmente per quanto riguarda il sud, e poi freddo almeno fino al 2 gennaio, secondo quanto possiamo leggere oggi dal Messaggero, le condizioni meteo non migliorano, quindi freddo e cielo sereno nella parte nord dell'Italia, invece freddo e anche maltempo, neve in molti casi nella parte sud e nelle isole. Purtroppo non sono delle previsioni eccellenti, ma tanto vi dovevo per rimediare all'annuncio dato in precedenza erroneamente. Vi parlavo invece dei nodi del 2015, allora che anno sarà almeno dal punto di vista delle istituzioni, della politica, ma nel senso appunto dell'attuazione delle normative, delle cose che potranno cambiare. Il lavoro viene presentato oggi da Avvenire, le sfide per il nuovo anno, le sfide poi in particolare viste dalla parte del Presidente del Consiglio, dalla legge elettorale, la aspettiamo, la riforma costituzionale, il nuovo Presidente della Repubblica ovviamente, e poi l'occupazione e la giustizia. La corsa per chiudere a gennaio le vicende della legge elettorale, ma poi naturalmente c'è da attuare il famoso Jobs Act, cioè la riforma del lavoro, che è stata sì approvata dalle Camere come legge, ma adesso appunto entra nel vivo della parte attuativa. Già i primi provvedimenti in bozza sono disponibili, sono stati presentati e vengono commentati. Questo per passare da Avvenire appunto al Sole 24 Ore, perché sul Sole 24 Ore anche oggi, 31 dicembre, prosegue l'iniziativa di illustrazione, di spiegazione delle riforme di fine anno, quindi quello che è contenuto nella legge di stabilità, o se preferite chiamarla manovra nella manovra, nel Jobs Act, cioè nella legge di riforma del lavoro, e nell'attuazione della delega fiscale. Tutto questo anche oggi sul Sole 24 Ore, questa serie di spiegazioni di doppie pagine che accompagnano appunto in una guida pratica alla lettura di queste novità. Ad esempio sulla legge di stabilità oggi si parla di ravvedimento, e poi per quanto riguarda il lavoro, il Jobs Act, parliamo invece dell'assegno ai disoccupati, della cosiddetta NASPI, perché dall'attuale ASPI si passerà alla NASPI. La N sta per nuovo assegno, nuovo sostegno per chi perde l'impiego. Questa è la nuova sigla, e ripeto, trovate questa serie che continua già da qualche giorno su Sole 24 Ore, proseguiremo anche nei prossimi giorni, non domani naturalmente, non ci sono quotidiani in edicola domani, ma già dai giorni successivi con ulteriori approfondimenti in materia. Poiché siamo sul Sole 24 Ore, ricominciamo dalla lettura della prima pagina, perché le questioni economiche comunque hanno tenuto banco anche ieri, con la segnalazione dell'Istat di una possibile uscita dalla recessione, ma con gravi ripercussioni, ancora gravi esiti sulla occupazione. Come è andata ieri in borsa? Non è andata bene. La Grecia pesa solo in borsa, è il titolo che trovate questa mattina in edicola sul nostro quotidiano. Ma i tassi BTP invece sono scesi al minimo storico. La crisi di Atene è la sintesi che poi viene presentata in prima pagina, non toglie fiducia agli investitori. I BTP, titoli del appunto BTP decennali, sono all'1,89%, sono andati all'1,89% in asta, un valore molto basso. Questo significa fiducia da parte dei mercati nel nostro debito, e quindi è una buona notizia. Non è invece una buona notizia la chiusura dal punto di vista dell'anno solare della borsa, perché sostanzialmente l'Europa frena lo spread di inizio anno, ci spiega Luca Davi nelle pagine interne. Piazza Affari annulla di fatto tutti i guadagni sui 12 mesi, chiude a un più 0,23. Tutt'altro dato da Oltreatlantico: Wall Street ha un nuovo record, ha una crescita nell'anno di oltre 12 punti percentuali. Ma sul Sole 24 Ore di questa mattina vi do anche un'altra segnalazione. Abbiamo come editoriale il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi, e c'è anche un intervento del presidente dell'FMI Christine Lagarde. Mario Draghi che scrive di stabilità e prosperità dell'Unione Monetaria, un lungo articolo appunto sulla importanza della integrazione, della coesione delle politiche economiche dei singoli paesi, ma un articolo in qualche modo che cerca di superare alcuni abituali fraintendimenti che stanno tra l'unione monetaria e la unione invece più frammentata dal punto di vista politico dell'Unione Europea. Scrive proprio così nel suo inizio Mario Draghi questa mattina sul Sole 24 Ore: un comune equivoco sull'area dell'euro scaturisce dal fatto che si tratta di un'unione monetaria senza un'unione politica. Ma ciò, scrive il governatore, riflette un profondo fraintendimento del significato di unione monetaria, perché l'unione monetaria è possibile solo grazie al considerevole grado di integrazione raggiunto dai paesi dell'Unione Europea, reso ancora più profondo dalla condivisione di una moneta unica. La sostanza è quindi, come ci avverte il governatore, è stata possibile un'unione monetaria perché c'era già un sufficiente grado di coesione politica per realizzarla da parte dei paesi. Cosa bisogna fare ora? Completare, scrive il governatore, l'unione monetaria. Cosa significa completare un'unione monetaria? Leggo sempre dal Sole 24 di questa mattina. Significa principalmente creare i presupposti affinché i paesi, entrandone a far parte, raggiungano una maggiore stabilità e prosperità. Insomma, devono trovarsi in condizioni migliori aderendo all'unione monetaria anziché restandone fuori. Questo il monito che segnala appunto il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi, che poi nel suo articolo spiega anche come si debba puntare a una maggiore coesione appunto tra le politiche che devono restare nazionali e invece la unione monetaria che va appunto completata, assestata per dispiegare davvero i suoi effetti. Ancora sul Sole 24 ore di questa mattina, insieme alle guide che vi dicevo sulle novità normative e come cambierà un po', come andranno a cambiare il nostro 2015 già da domani, una segnalazione per il governo che accelera sui decreti che riguardano la pubblica amministrazione e appunto la congiuntura, cioè l'Istat che vede la fine della recessione ma la disoccupazione crescerà, è l'avvertimento che trovate anche sul Sole 24 ore e su molti altri giornali questa mattina. Passiamo ad altre testate, ci sono, vi dicevo, sia sulla vicenda di Napolitano, sulla vicenda del Norman Atlantic, sia sull'ultimo discorso di Napolitano, delle letture anche più dichiaratamente politiche di schieramento, insomma. Così ad esempio per Libero, che sceglie un titolo polemico relativo al traghetto, Renzi sale a bordo, 11 morti, 179 dispersi, e poi ricorda sempre nel titolo tra italiani tra le vittime. Che significa questo Renzi sale a bordo riferito al Norman Atlantic? Il Premier spiega poi il catenaccio, cioè la parte sotto il titolo nella prima pagina di Libero: ha tentato di prendersi i meriti del salvataggio del traghetto in fiamme, ma ora emerge la realtà, è stata una catastrofe e crescono i dubbi su troppi aspetti della vicenda. Decine di clandestini, la Norman è un cimitero galleggiante e arriva un'altra nave piena di profughi. Questa è la lettura appunto dichiaratamente politica da parte di Libero delle vicende legate alla tragedia del Norman Atlantic. Sceglie invece di dare spazio all'ultimo discorso del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il giornale Napolitano, e il titolo è abbastanza chiaro: finalmente se ne va. Stasera si chiude una delle pagine più buie della storia italiana, e poi unendo appunto anche le vicende della Norman Atlantic, figuraccia di Pinotti e Lupi sulla tragedia dell'Adriatico. Racconta poi il giornale questo è un esercizio che cercano di fare in diversi quotidiani quest'oggi, rincari possibili, diminuzioni possibili nel corso del 2015. Come sapete, il Sole 24 Ore lunedì ha presentato una lista di 100 novità tra rincari e non solo rincari, anche possibili diminuzioni per il 2015. Anche oggi altri quotidiani si cimentano in questo esercizio di andare a decifrare un po' quale potrebbe essere il nostro oroscopo, non dal punto di vista astrologico, ma di consumatori, di contribuenti, di cittadini nell'anno che inizia domani. E allora per il giornale già i segni non sono fausti, perché si comincia con più care birra, multe e acqua. L'anno inizia con il botto, una raffica di aumenti. Qui La vicenda viene ripresa da uno studio diffuso ieri, due studi anzi diffusi ieri, uno della CGIA di Mestre e l'altro della Confcommercio, che ha segnalato i forti aumenti della TARI, la sigla sta per tassa rifiuti. A proposito di tasse, ma proprio come segnalazione al volo, sul secolo XIX apprendiamo che Hollande, il presidente francese, sta per abolire la cosiddetta tassa sui ricchi. Era stato uno dei cavalli di battaglia della sua campagna elettorale, appunto un prelievo aggiuntivo sui redditi particolarmente elevati, 75% sui redditi oltre il milione di euro, ma poiché ha portato solo degli incassi minimi, ci spiega Federico Simonelli sul secolo XIX di questa mattina, sarà abolita da febbraio, quindi una imposta che doveva anche dal punto di vista simbolico segnare un cambio di rotta, che però viene archiviata. Il secolo XIX naturalmente dà molto spazio, come tutti i quotidiani del resto, alla vicenda del Norman Atlantic, la tragedia degli italiani sul Norman Atlantic, tre napoletani fra gli 11 morti, e poi giornale che si stampa a Genova e che quindi è sempre attento a questioni marine e marittime, ci avverte che già che sarà battaglia sui risarcimenti, perché già ora c'è anche tutto il problema del risarcimento per chi si è trovato coinvolto da questa vicenda, gli assicuratori, spiega Simone Gallotti nelle pagine interne, preparano una battaglia perché secondo gli esperti è possibile un rimpallo di responsabilità tra l'armatore italiano e il noleggiatore greco. L'altro prezzo, scrive così appunto Gallotti, della tragedia del Norman Atlantic, Anne Klein risponderà delle perdite umane e poi delle appunto ci sono alcune domande, diversi quotidiani si esercitano in domande e risposte per spiegare come sia potuto accadere, come la tragedia del traghetto abbia potuto prendere queste dimensioni. Nel caso del secolo XIX, come avviene il carico, chi deve vigilare in caso di merce pericolosa e poi chi controlla che il carico sia quello dichiarato. Ci sono naturalmente in caso di merci pericolose degli accertamenti a monte, però soltanto i controlli a campione, ci spiega il secolo XIX questa mattina, possono stabilire una reale corrispondenza. Questo appunto sul secolo, che ci dà un altro risvolto, un'altra parte che va ad aggiungersi a quella che secondo il Fatto Quotidiano, e cambiamo così prima pagina, prima di fermarci, ma chiedo conferma a Peter Bescapè per la viabilità, mi fa cenni di rassicurazione, quindi avremo l'abituale appuntamento con la viabilità. Dicevo ancora su questa vicenda che il Fatto Quotidiano definisce nella sua prima pagina la nave dei misteri. Cosa si nasconde nelle stive della Norman Atlantic? Leggiamo sul Fatto Quotidiano. Il timore è che nel garage andato in fiamme siano bruciati vivi dei passeggeri clandestini. E intanto dal mare affiorano altri cadaveri. Il relitto è conteso tra l'armatore e la giustizia italiana ed è bloccato davanti a Valona. In primo piano. E allora ancora una buona giornata e ancora naturalmente tanti auguri da parte mia, da Mauro Meazza, per il nuovo anno. Stiamo dando un'occhiata, vi sto riferendo delle prime pagine, non solo delle prime pagine, degli ultimi quotidiani del 2014. Allora, resoconti del 2014, iniziativa quest'oggi del giornale, le parole del 2014, un inserto che si aggiunge appunto al quotidiano che è in edicola questa mattina, il giornale dei fatti 2014, così viene spiegato. Si comincia da la prima parola è Alba ed è dedicata a Samantha Cristoforetti, che è appunto la nostra astronauta in questo momento in orbita. Lo spazio è meglio di come me lo immaginavo, abbiamo visto immagini spettacolari, la prima Alba e le stelle. Questa è la prima parola affidata poi al commento di Serena Coppetti. E la L'ultima parola invece che viene scelta per il 2014 è zero. La frase è di Marine Le Pen: dappertutto in Francia sarà tolleranza zero contro il crimine. Tra le altre parole, ma ovviamente l'inserto è abbastanza corposo, non riesco a leggervele tutte, una parola che aveva fatto aveva avuto una grossa eco, una frase meglio che ha avuto grossa eco, la parola è blog. Esci da questo blog, Beppe. La frase fu appunto pronunciata da Matteo Renzi nel suo incontro con Beppe Grillo. E poi appunto un'altra parola che viene scelta, domanda da parte di Brittany Maynard, che è la giovane americana, lo ricorderete, che ha deciso, colpita da un cancro al cervello, ha deciso per l'eutanasia. La domanda, disse Brittany Maynard, la mia domanda è: chi ha il diritto di decidere per me, decidere che merito di soffrire enormemente? E poi la parola che ohimè da anni ci tiene compagnia, ma non sempre nel senso positivo, economia. L'economia è il fine e l'uomo è il mezzo per servirla, la frase di Oscar di Montigny, riportata oggi su Il Giornale, commentata, ogni parola viene commentata da un giornalista o da un commentatore di Il Giornale, la parola è commentata in questo caso da Marcello Zacchè. Ritorniamo sulle prime pagine, abbiamo dato conto delle prime pagine per quanto riguarda Libero e Il Giornale, Il Manifesto, quindi cambiamo decisamente orientamento politico, dà invece il suo titolo, la sua parola chiave di oggi, a proposito di parole chiave appunto, alla segnalazione dell'Istat che ha detto sì, stiamo probabilmente per vedere la fine della recessione, ma non stiamo vedendo ripartire l'occupazione. E allora capo danno, il gioco di parole oggi del Manifesto, con appunto separando due parole, con una foto di tute blu di operai, l'Istat e poi la spiegazione di questo capo danno, sbugiarda l'ottimismo del governo Renzi sulla ripresa nel 2015. Aumenta la disoccupazione, specie quella di lungo periodo, vero freno al mezzogiorno. E sul petrolio a $60, sapete, il petrolio in fortissimo calo, l'avvertimento appunto della segnalazione dell'Istat, per l'Italia l'effetto sarà zero, quindi nessun particolare effetto. Vi dicevo degli aumenti del 2015, ne riferisce Libero, quelli che prova a mettere in fila il Bruno Villois su Libero, sulle pagine di Libero, sono soprattutto dedicati a quello che è stato deciso nella ultima legge di stabilità, il nuovo regime dei contribuenti minimi con tasse che si prevedono, un prelievo che si prevede in aumento anche fino al 500%, e poi aumentano da domani i contributi previdenziali alla gestione separata dell'INPS, ma aumenta, come sappiamo, abbiamo commentato più volte in questi mesi, anche la tassazione per quanto riguarda i fondi pensione. Ad esempio aumenteranno in alcuni casi aumenterà l'IVA per ad esempio per i pellet, e ieri è stato ricordato anche, non viene citato qui naturalmente perché la pagina è tutta giocata sui rincari, la riduzione invece che sempre si attende con effetto da domani per gli ebook, che scendono dall'aliquota massima IVA del 22% a un 4%, questo giocando un po' d'anticipo sulle autorizzazioni che potranno dovranno arrivare poi dalla Comunità Europea. Passando invece da questioni che riguardano, diciamo, la nostra vita quotidiana e anche il nostro portafoglio, sempre su Libero i piani dei leader per il 2015, con un gioco di doppia pagina in cui ai piani di Berlusconi, Salvini e lo stesso Presidente del Consiglio Renzi si affiancano le priorità degli italiani. Meno fisco e meno UE è quello che invece si aspettano gli italiani, il polemico titolo per Fausto Carioti che accompagna questi tre piani. Allora, che faranno? Quali sono i piani dei leader, dei tre leader Il CAV finisce i servizi sociali e spera in un amico al Quirinale, quindi la vicenda del nuovo presidente dell'elezione, il nuovo presidente della Repubblica dopo le dimissioni di Napolitano, che dovrebbero essere, appunto, saranno confermate questa sera. Salvini per la Lega, Salvini punta tutto sul sud per guidare il centrodestra. E la sua dichiarazione, pronti a dare la spallata all'esecutivo. E poi Renzi prova a prendere tempo e spera nella ripresa economica. Intanto si segnala, sempre in questa doppia pagina di Libero, Grillo che prepara una sorta di discorso, di controdiscorso di Capodanno, oggi alle 20.30, il discorso di fine anno di Beppe Grillo, in concomitanza, chiaramente in concomitanza e in concorrenza con quello di Napolitano, che appunto si terrà sempre questa sera. Poi, a proposito di Berlusconi, c'è su diversi giornali questa smentita su una presunta crisi tra Berlusconi e, appunto, la Pascale, la sua compagna Pascale. Devo dire che qui c'è la tentazione di, come farebbe il titolare di questo spazio, cioè Alessandro Milan, di assegnare il premio alla carta costa, però ci tratteniamo, ma effettivamente corre l'obbligo di dire che su qualche giornale la coppia di Arcore conquista parecchio spazio. La maggior parte dei quotidiani si limita alla precisazione data ieri dalla stessa Francesca Pascale: nessuna crisi tra me e Silvio. Qualche giornale invece si estende allo spazio dedicato a questo aspetto. Ad esempio il caso del Quotidiano Nazionale: Francesca in fuga da Silvio e lei, ma che, non mi muovo di qui. Lunga assenza pubblica della fidanzata, crisi o svolta low profile? Allora l'amletico dubbio, appunto, mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo per niente. L'amletico dubbio di Moretti, scrive Antonella Coppari su Quotidiano Nazionale, non si pone proprio perché l'assenza prolungata dalla scena pubblica ha fatto rumore, 2 mesi senza vedere sue foto sui giornali assieme a Silvio. Per Capodanno però apprendiamo, sempre da Il Giorno, ma la vicenda viene riferita anche da altri quotidiani, al momento la signora Pascale, che è in Spagna con un'amica, sarà a Villa San Martino, quindi siamo, diciamo, tutti più sereni, o forse no, ma insomma siamo contenti se le cose vanno bene nella coppia, ma in senso probabilmente più generico che non politico. E restiamo allora su vicende politiche. Su diversi giornali ci sono delle possibili anticipazioni su quello che dirà il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano questa sera nel suo ultimo discorso al Presidente della Repubblica. E tutto è pronto per l'ora del grande commiato. Leggiamo dal Messaggero: un forte appello alla coesione sociale, spiegherà le ragioni della sua scelta, ci riferisce Paolo Caccace sul Messaggero, darà la sponda alle riforme del governo. Sarà, ricorda il Messaggero, sempre un passaggio delicato anche dal punto di vista emotivo, il suo bilancio di 8 anni e mezzo trascorsi al Colle. E poi si riferisce sempre su questa pagina del Messaggero, dove si prova a dare delle indicazioni, delle anticipazioni degli argomenti che saranno trattati questa sera al Presidente della Repubblica, si riferisce anche della iniziativa del controdiscorso del Movimento 5 Stelle, del controdiscorso di Beppe Grillo. Radio Padania, leggiamo dal Messaggero, manderà in onda Pertini per polemica per critica, appunto, nei confronti del presidente Napolitano. Questo trovate su Il Messaggero di oggi. Abbiamo tempo ancora forse per una segnalazione prima del rientro di Irene Zerbini, e di lasciare la linea a Irene Zerbini, che adesso salutiamo. E allora quest'ultima segnalazione, anche se mi costa una certa fatica, ma lo faccio come regalo ad Alessandro Milan e come regalo a tutti voi, mi tocca segnalarvi la prima pagina della Gazzetta dello Sport e leggere anche questo titolo: è un Milan Real. i rossoneri hanno dominato la sfida di Dubai contro i campioni d'Europa e del mondo con 4-2. Bene, spero di non soffrire così. No, beh, è una cosa. Non soffrire così mentre lo leggi, insomma. Bentornata Irene, ma il cuore appunto nerazzurro è in grossa difficoltà di fronte a queste notizie, ma diciamo la deontologia, la professionalità mi impongono di riferirle e così lo faccio. Per spero fortuna che ci sei tu nell'ordine dei giornalisti, Mauro. No, per carità, non merito tanto. Adesso qui si tratta solo di questioni di passione calcistica. Comunque, bentornata Irene. Noi ci chiudiamo. Hai pensato all'insegnante che in qualche modo ti ha segnato la vita, ti ha lasciato l'eredità più importante? Ma sarei tentato di dire proprio la maestra delle elementari, che essendo stata la prima è stata poi anche quella forse più determinante, però non vorrei essere ingiusto, ma credo che così sia anche per molti ascoltatori nei confronti di altri che magari si sono occupati della mia preparazione al liceo piuttosto che all'università, quindi via via in cose. Quanti anni è durato il tuo liceo? 5, 6, 7? 5 anni, 5 anni. Sì, sono riuscito a finire nei tempi previsti. Grazie, idem. Ma sai, erano di manica larga evidentemente erano altri tempi. Bene, sì. Allora tanti auguri da parte mia a tutti quanti e soprattutto a Irene Zerbini, a cui cedo di nuovo il microfono. Buon anno a tutti. Velocissima, vi anticipo la tematica delle 8:15. Ci concentreremo sulla scuola superiore, ci sono scadenze in vista, il 27 gennaio preiscrizioni, siamo vicini dunque alla decisione finale. Quello che succede è che ci si appresta a prendere una decisione che in qualche modo segnerà tutta l'esistenza. Come si seleziona una scuola? Come si misura la validità di un istituto, di un insegnante? Che importanza ha rivestito nella vostra esistenza? Ne parleremo naturalmente dopo il GR. La linea dunque alle news. 24 mattino. E 17, 31 dicembre, dunque siamo al termine anche di quest'annata 2014 e vogliamo concentrarci oggi su quelli che saranno, che sono, lo sono già, gli italiani di domani. Innanzitutto una buona giornata da Irene Zerbini, benvenuti a coloro che si sono sintonizzati da poco. Quando e come iscriversi alle scuole superiori sarà uno dei temi che tratteremo con le date da ricordare, perché entro il 27 gennaio 2015 sarà già possibile effettuare una sorta di preiscrizione alle scuole superiori. E perché prendiamo in esame questa data oggi? Perché è uno di quei passaggi che in qualche modo segna la vita. C'erano tanti articoli anche nel corso di quest'anno, anche nel corso delle ultime rassegne stampa, che parlavano di ragazzi. Come ne parlavano questi articoli? Adesso, senza stare a entrare nel dettaglio delle aberrazioni descritte, in generale, quando questo segmento della popolazione merita di essere raccontato è perché ha ecceduto con l'alcol, con la droga, si è offerto per prestazioni sessuali in cambio di denaro, ha abusato, è stato bullo. Cioè, c'è una descrizione del panorama dei ragazzi decisamente deprimente, ma soprattutto che non rende giustizia alla ricchezza, alla bellezza che questi ragazzi rappresentano. E lo sanno bene gli insegnanti migliori che hanno saputo cogliere questo tipo di aspetto. Ce ne sono di insegnanti meravigliosi, molti di voi ne ricorderanno alcuni nella propria storia, nella propria esperienza, e ce ne sono alcuni che addirittura vengono certificati proprio così. Esiste un Nobel per i professori, lo sapevate? E c'è in lizza $1 milione, ma al di là del premio in denaro, questo Nobel segnala i professori più innovativi del mondo e la selezione è stata fatta tra 5.000 docenti. Ci sono due nomi italiani e saranno nostri ospiti in questa lista finale di 50 persone che correrà per questa sorta di Nobel, verrà deciso a marzo. Loro sono sul podio e, come tutti i migliori, quando li abbiamo consultati per preparare questa puntata, quando li abbiamo chiamati, cosa ci hanno detto? Ci hanno chiesto perché, cioè non riescono a capire cosa facciano di eccezionale, trovano quello che fanno decisamente normale e poi hanno sottolineato una cosa: il merito è dei ragazzi. Saranno con noi dunque questi sedicenni, questi quindicenni. Invito tutti voi che rientrate in questa fascia d'età, se siete all'ascolto, chiamateci all'800 24 00 24 per dirci cosa. Nella buona scuola di Renzi, e di cui si parla in questi giorni, non si fa accenno al valore dell'insegnante in classe con gli studenti. Questo me lo scrive un ascoltatore in questo momento, e dice: secondo me i migliori sono quelli che fanno più attività extra lezione. Voi siete d'accordo? Come si sceglie, come si decide quando una buona scuola lo è davvero? In base a quali criteri? Ascolteremo nel corso della trasmissione anche dei criteri adottati negli altri paesi. E prima di tutto ci spostiamo in Danimarca. Charlotte Silvestern, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Charlotte Silvestern, tra l'altro, è la corrispondente in Italia per una radio danese gemella, sorella, chiamiamola così, almeno nel nome, 24/7. Dici il nome della emittente per cui tu fai le corrispondenze, per cui racconti l'Italia, in danese. Radio 24/7. Benissimo, quella radio lì, che non sto a ripetere, ha ascoltato spesso le corrispondenze della nostra amica oggi collegata con noi e il racconto di quanto avviene qua. Si è soffermata anche sulle differenze che caratterizzano il pianeta giovani, i giovani italiani rispetto ai giovani danesi. Come le sintetizzeresti, Charlotte? Ma è difficile, però con il rischio di generalizzare direi che per causa della cultura, della famiglia, eccetera, i giovani danesi a 15, 14, 16 anni sono più indipendenti dei loro corrispondenti in Italia. Ci si aspetta più indipendenza dai giovani in Danimarca che in Italia. Quando parli di indipendenza tu intendi chiaramente riferirti a diverse sfere. Una imprescindibile è l'indipendenza economica. Lavorano i ragazzi di 15-16 anni che magari sono anche studenti in Danimarca? Sì, lavorano ed è tutto normale e non è un segno di disagio sociale e economico della famiglia. Anzi, i giovani in Danimarca sono ancora oggi, è difficile con le regole dell'Unione Europea sui lavori dei minori, eccetera, ma i giovani in Danimarca portano i giornali, lavorano nei chioschi, nelle stazioni di servizio, fanno babysitter e fanno lavori di giardinaggio. Sono dei soggetti fiscali? Charlotte, sono dei soggetti fiscali, cioè dichiarano quanto percepiscono? Certo, sono soggetti fiscali, ma hanno un limite fino a quando possono guadagnare senza pagare il fisco. C'è una sorta di tetto, diciamo così, entro 5.000 euro, immagino sia una cifra del genere, possono guadagnare. Credo che si gira intorno a 3-4.000 euro. 3-4.000 euro? Si paga, sì. Hanno il diritto di non versare nulla al fisco e poi si paga naturalmente gradualmente. Ma la cosa interessante è che comunque la loro dichiarazione dei redditi, la ricevuta intestata a loro nome, possono percepirla. In Italia non è così. In Italia ci sono delle difficoltà enormi per far lavorare ragazzi di 15-16 anni che anche avrebbero l'intenzione, la buona volontà, l'idea da mettere a punto, perché poi ci si lamenta del fatto che siano mammoni i giovani italiani, ma in realtà il sistema non aiuta l'affrancamento, non aiuta l'indipendenza, si guarda a loro sempre come fossero persone da tutelare, anche quando sono alti 1,90 e hanno tutta l'energia fisica e mentale per essere almeno frammentariamente indipendenti. Questo è già un approccio molto molto diverso. Dal punto di vista della scuola invece, Charlotte, a quale età si compie la scelta verso la scuola superiore in Danimarca? Ma la scuola elementare in Danimarca va dal primo al decimo classe e dopo la nona o la decima classe bisogna scegliere, cioè quando si ha 14, 15, 16 anni, più o meno come in Italia. E devo dire una cosa, che sono contenta io di non essere giovani oggi, sia in Italia che in Danimarca, perché anche in Danimarca i licei, cui 70% dei giovani danesi cercano di entrare nel liceo e fare la maturità, lì solo 30% vanno negli istituti commerciali o artigianali. Questo è un problema in Danimarca, però sono contenta di non essere giovane anche io in Danimarca, perché la scelta che uno deve compiere a quell'età è determinante, mentre quando facevo io il liceo la maturità dava diritto di entrare in tutto un spettro largo, larghissima, all'università, alle varie facoltà. Oggi la scelta è troppo ristretta per i giovani di 14 e 15 anni, è una scelta troppo importante di fare in quell'età, sia in Italia che in Danimarca. E questo è stato segnalato anche da istituzioni come Alma Diploma, che hanno intervistato i ragazzi che per esempio hanno centrato l'obiettivo della maturità quest'anno. Ebbene, se tornassero indietro, il 46%, attenzione, quasi uno su due, farebbe scelte diverse. C'è qualcosa che non funziona nell'orientamento, nelle scuole medie, oppure è troppo precoce la scelta, che poi non diciamo determinerà la vita, perché non bisogna nemmeno essere così assolutisti, nel senso c'è sempre modo di imparare, di cambiare direzione, però in qualche modo la condizionerà pesantemente. I pentiti del diploma in Italia sono il 46%, e tu hai tracciato anche una differenziazione tutta, che non è tutta danese, perché c'è anche in Italia, tra licei e istituti tecnici. Ancora in Italia c'è il mito che comunque un certo tipo di preparazione sia superiore gerarchicamente come valore, sto parlando di quella dei licei naturalmente, rispetto a quella degli istituti tecnici, ma non è sempre così. Che tipo d'attenzione riveste la scuola e il sistema educativo e di formazione nelle politiche danesi, Charlotte? Ma tantissimo, direi, anche da un punto di vista economico. Sono andata a cercare i dati e la Danimarca spende più di 8% del prodotto interno lordo in educazione. Questi sono 3% di più degli altri paesi del OCSE. Allora in Danimarca c'è tantissimo intenzione, e poi anche l'intenzione di costringere con il buono e il male, tanto più con il buono, che tutti i giovani devono avere una formazione dopo la scuola dell'obbligo in Danimarca. Il problema dell'attenzione, come hai detto anche tu, è che fino al 70% scelgono il liceo, e ci sono anche i pentiti della diploma in Danimarca, tantissimi, e tanti di quelli che comunque finiscono anche il liceo non rientrano nel sistema educativo e rimangono lasciati lì. Nonostante queste bellissime cifre, fino al 30% di una nata di giovani danesi finiscono di non avere nient'altro che la scuola d'obbligo. E questo naturalmente si fa sentire poi nel corso dell'esistenza, anche di fronte alle opportunità lavorative. Charlotte, grazie per questa testimonianza dalla Danimarca. Noi ti sentiremo presto per trattare di un tema poco battuto, anche questo, dai giornali e dai media in Italia, ma molto importante per gli italiani che vivono in Danimarca. È successo qualcosa di veramente rivoluzionario recentemente. Ce lo puoi anticipare in 30 secondi? Ma in 30 secondi posso dire che dal 1° di settembre l'anno prossimo, 2015, gli italiani in Danimarca possono chiedere la cittadinanza danese senza rinunciare a quello italiano, e io posso fare viceversa in Italia. E ne parleremo anche in uno speciale che andrà in onda domani. Il tema della cittadinanza è un tema che non riguarda dunque solo i nostri immigrati, ma tocca ancora tantissimo anche gli italiani fuori dai confini. 24 mattino. 8:31, la scuola, oggi i giovani, perché naturalmente quello è un nodo cruciale per il futuro e per la costruzione dell'Italia di domani, almeno finché non si inventerà l'immortalità, il passaggio di testimone prima o poi bisogna farlo. Che tipo di italiani stiamo crescendo? Che tipo di italiani ci circondano a 15-16 anni, visto che quelli di cui parliamo sono solo coloro che si sbronzano fino al vomito? Per questo i ragazzi raggiungono gli onori delle cronache, o coloro che non rispettano gli anziani sull'autobus, quelli che picchiano fratelli e genitori? Questo in generale è il tenore dei titoli di giornali nel 2014 per quello che riguarda l'informazione sui ragazzi. Ma sono tutti così? Ne siamo veramente sicuri? Antonio Scarnera, buongiorno, benvenuto. Pronto, Antonio? Mi sentite? Buongiorno. Da dove sei collegato con noi innanzitutto? Dove ti trovi? Mi trovo adesso a casa, quindi da Lecce. E quello con cui stiamo parlando è un imprenditore, ha una startup informatica in piena crescita, quindi guadagna con la sua attività. Tu dici, riveli ai tuoi clienti quanti anni hai? No, non rivelo ai miei clienti quanti anni ho, perché questo potrebbe portare qualche diciamo problema di fiducia da parte loro. E a noi lo puoi dire? Certo, sì, ora ho 17 anni. Senti Antonio, che fai? Di che si tratta? Che tipo di servizio offri ai tuoi clienti? I servizi che offro ai miei clienti sono dei servizi web, quindi permetto a ragazzi come me di aprire un proprio sito web o diciamo un proprio servizio su internet. E come ti è venuta questa idea? Era una necessità che io stesso avevo quando avevo circa 15 anni e non c'era niente, quindi non c'era niente di che io potevo comprare a un prezzo diciamo moderato che potevo permettermi, e allora ho lanciato un servizio ad hoc per i ragazzi. Cioè tu non potevi comprare nulla a un prezzo moderato, stiamo parlando di servizi, esatto, web naturalmente, esatto, a prezzi accessibili, perché tu, Antonio, sì, sei un imprenditore ma sei anche uno studente. Certo, sì. Dell'istituto Galilei Costa di Lecce. E come hai aggirato, ma in maniera del tutto legale, attenzione, qui non stiamo parlando di scorciatoie per evadere, come hai aggirato il problema della fiscalità? Cioè tu puoi percepire del denaro? Sì, posso percepire del denaro grazie al professore di informatica Daniele Manni della mia scuola, che ha una cooperativa che permette ai ragazzi di appunto di lanciare la propria idea imprenditoriale. Antonio Scarnera ha parlato di questo professor Daniele Manni che abbiamo disturbato. Buongiorno professore, con noi anche lei? Buongiorno, ma quale disturbo, è un gran piacere, buongiorno a tutti. Buongiorno, lei è nella lista tra i professori, nella lista dei professori che ambiscono, lei non sei autocandidato, ecco, grazie, lei non è che ambisce, però insomma è finito lì, i professori più bravi del mondo, ci sono due italiani in lizza e lei è uno. La sua specialità è stata un po' questa, almeno raccontata dagli altri, cioè è riuscito a creare questa cooperativa all'interno dell'istituto tecnico che permette ai ragazzi di diventare già protagonisti della propria esistenza, della propria vita. E tutti questi ragazzi hanno creato startup. Quando lei entra in classe, come viene accolto? Cosa fa? Apre un libro? Come si pone di fronte a loro? Di nuovo buongiorno a tutti quanti, ma allora ci tengo a precisare alcune cose. Intanto non sono nella lista dei più bravi, ci tengo a sottolinearlo questo, perché in Italia il canone del più bravo sono ben diversi. Diciamo che è una lista dei più innovatori, forse probabilmente è più corretto dire innovatori, loro usano il termine di outstanding, che in italiano verrebbe tradotto come eccezionale, cioè che fanno eccezione, quindi va specificato questo. che emergono, che spiccano, va bene, esatto, abbiamo specificato esatto, anche questo, visto che è così modesto, è giusto, è importante. Stiamo parlando con uno dei professori definito comunque tra i 50 migliori del mondo, Daniele Mani, dell'Istituto Galilei Costa di Lecce, ed è interessante questa anche sua appartenenza a un istituto tecnico, visto che si pensa sempre che solo i licei possano produrre eccellenze, chissà perché c'è ancora questo pregiudizio. Comunque, Manni, al di là della sua modestia, ci spieghi cosa fa quando lei entra in classe? Il curriculum lo deve svolgere. Avete anche voi libri e tutto quanto, non solo laboratori. Abbiamo libri, abbiamo curriculum, però fino alla riforma sapevo di essere un fuorilegge, un totale fuorilegge, perché appunto il ministero un po' dettava quali fossero le regole, quali fossero i programmi da dover svolgere, e tranne il quinto anno, dove i ragazzi dovevano affrontare un po' gli esami di Stato, gli altri anni mi sono sempre permesso di andare fuori dalle righe, perché trovavo i programmi antiquati, non adeguati alla realtà esterna della scuola. Ma no, non mi dica. Una parte veniva svolta, ma tutta l'altra parte veniva improvvisata sul momento in base alle esigenze, perché poi insegnando una materia come informatica capirà bene che la mia preoccupazione non è tanto quello di insegnare loro quello che si usa oggi, ma se fossi davvero bravo dovrei insegnare loro cosa ci sarà fra 2 o 3 anni, quando si diplomeranno. Un esempio di questa cosa è che probabilmente sono stato uno dei primissimi in Italia a insegnare l'uso di Facebook quando in Italia non si conosceva ancora. E oggi invece ha dei ragazzi, perché lei oltre a insegnare soprattutto li rende molto indipendenti, ha dei ragazzi che hanno avviato le start-up. Abbiamo sentito Antonio Scarnera, che è un imprenditore a 16 anni, ora gli avremo rovinato la clientela, perché chi naturalmente tra i suoi clienti era in ascolto ha scoperto l'età, e c'è un po' questa idea in Italia che sei giovane non puoi essere in grado di portare avanti. E a parte Scarnera, che start-up avete in corso in questo momento? Sì, e tengo anche a precisare che quella società cooperativa di cui ha parlato è stata creata 10 anni fa, quindi nel 2004 insieme al collega che insegna inglese, Elisabetta Del Rico, che poi è anche la mia compagna della vita, quindi ci accompagniamo in questa avventura. E in questi 10 anni di startup ne sono state create tante. Diciamo che oggi quelle che un po' spiccano, oltre al bellissimo progetto di Antonio Scarnera, c'è quello di un altro ragazzo, Antonio Monaco, che si è diplomato da 2 o 3 mesi e poi si è appena diplomato, ma già prima del diploma aveva lanciato una nuovissima idea di t-shirt che ha avuto un certo successo. Poi, sempre dalla scuola. E quest'anno, la cosa bella di quest'anno è che ci stiamo buttando ancora più avanti. C'è una classe quinta in cui ci sono 5 gruppi che si stanno contendendo il titolo di miglior startup dell'anno. Loro sono in gara tra di loro, hanno creato ognuno una startup e a fine maggio sapremo qual è stata la migliore startup delle 5. Antonio Monaco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Visto che il professore l'ha citata, è giusto che anche lei ci racconti innanzitutto di questa attività che ha trasformato il Salento in business, titolo del Corriere della Sera. Però esserci lì a 19 anni e non perché si era drogati, alcolizzati o criminali, non è male. È diventata la sua, posso darti del tuo Antonio, anche se sei imprenditore? Bene, bene, Antonio, è diventata la tua attività full time anche dopo la scuola? Sì, la scuola io l'ho terminata qualche mese fa, quindi mi dichiaro un ex studente, mi sono diplomato anch'io nell'Istituto Galilei di Costa e ormai da settembre, anzi ormai da un giorno dopo l'esame per il diploma, io vado ogni mattina in un ufficio a Lecce e svolgo la mia attività lavorativa. Qual è il tuo messaggio agli altri ragazzi? Beh, io sono un po' stanco di sentir dire ormai dappertutto che i giovani non hanno futuro, magari è anche vero, magari per colpa di tanti anni di un sistema che si è rivelato un po' sbagliato, i giovani hanno difficoltà un po' a crearsi il futuro, a cercare di realizzare i propri sogni, però secondo me, ed è quello che vogliamo dimostrare noi ragazzi, soprattutto qui a Lecce, attraverso le nostre attività, le nostre idee, è proprio quella di che forse la strada più giusta è quello di non aspettare nessuno e di crearci da noi il proprio lavoro, realizzare i nostri sogni. E la chiamo ancora in causa, professor Manni. Perché lei ha creato una cooperativa? Cioè, ci sono delle difficoltà anche fiscali per dei ragazzi, per dei minorenni, per degli studenti a percepire denaro, a creare una vera e propria impresa? Assolutamente sì, diciamo che non è tanto la difficoltà nel percepire il denaro, quello è possibile, quello che non è possibile è che un'attività di un minorenne possa fatturare il lavoro che lui fa, cioè nel senso che un minorenne non può avere una partita IVA, non può avere una società, quindi se dovesse realizzare un servizio vendibile sul mercato la può vendere ma è obbligato a farlo in nero perché non può emettere una fattura. Noi abbiamo creato questa società cooperativa che quindi cautelava da questo punto di vista, tutte le attività dei ragazzi passano attraverso la cooperativa, è la cooperativa che fattura, che emette fatture, che riceve denaro e poi ricompensa il lavoro dei ragazzi attraverso una normale e legalissima ricevuta di compenso in pratica di lavoro occasionale. E si parla spesso della connessione tra scuola, non solo impresa, e mondo reale, mondo del lavoro, e mi sembra un'ottima realizzazione quella che siete riusciti a mettere in piedi qui all'Istituto Tecnico Galilei Costa di Lecce. Se mi permette, faccio anche qui un piccolo salto, si insiste molto e sono assolutamente d'accordo che le scuole, soprattutto tecniche, facciano in pratica simulazione d'impresa. Noi da 10 anni abbiamo fatto un passo ancora più avanti che non è quello della simulazione ma dell'impresa reale. L'avete proprio creata. Voglio salutare l'altra candidata al titolo, anche in questo caso non si è candidata lei ed è un mistero chi abbia fatto il suo nome, ancora misterioso per lei, l'altra candidata al titolo di miglior insegnante del mondo, Daniela Boscolo. Professoressa, buongiorno. A lei, buongiorno a tutti. Dove si trova lei? Perché qui stiamo un po' attraversando l'Italia con le vostre storie, le vostre vite. Sì, io sono nel Polesine, alle Foci del Po. Esattamente dove? In quale? A Portoviro. A Portoviro. In provincia di? Di Rovigo. E lei è stata nominata una delle migliori insegnanti d'Italia, in passato ha ricevuto, per una creazione in particolare, un insegnante di sostegno. Sì. E segue i ragazzi con disabilità. Con disabilità, sì. Ed esattamente cosa ha creato nella sua scuola? Anche qui un istituto tecnico, vogliamo citare anche qua l'istituto? Anche un istituto tecnico, sì. Vogliamo citare l'istituto? Allora, l'Istituto Tecnico Colombo di Portoviro, che è una sede associata dell'Istituto Colombo di Adria. E a parte la normale vita scolastica, lei ha a che fare con alunni, chiamiamoli così, con esigenze, sì, educative speciali, sì, questa è l'etichetta del Ministero, sì. Cosa ha creato? Allora, io ho creato un'aula particolare, un ambiente educativo di apprendimento particolare che è un supermercato all'interno della mia scuola. Un supermercato? Sì, un supermercato, per alcune regioni, una della principale è che mi sono resa conto che per i ragazzi, chiamiamolo così, normodotati, la scuola mette in atto un progetto bellissimo che è l'alternanza scuola-lavoro per agevolare l'inserimento lavorativo dei nostri ragazzi. Per i ragazzi con disabilità questo non veniva fatto o comunque non veniva fatto nelle modalità adatte a loro, no? E quindi mi sono chiesta, ma è giusto che i ragazzi siano loro a doversi adattare o è la scuola a doversi adattare alle esigenze specifiche e speciali dei nostri ragazzi. Ma quando lei dice ho creato un supermercato, ci, sì, spieghi meglio? Allora io ho chiesto naturalmente l'aiuto a dei supermercati della zona, quindi c'era un salone, una sala che era adibito a magazzino della mia scuola, sono andata dal prezzo e ho detto io avrei bisogno di questa sala qua. Il prezzo mi ha detto se trova i soldi per metterla a posto è sua, e io ho trovato i soldi per metterla a posto e quindi poi me l'ha ceduta e naturalmente ho trovato i soldi nel senso che sono andata non a rubare, è chiaro, sono andata a chiedere aiuto al Rotary Club del luogo e mi hanno finanziato. Insomma, istituzioni benefiche l'hanno finanziata. Quando si entra lì cosa c'è? Ci sono le corsie, i prodotti? Ci sono le corsie, ci sono gli scaffali, ci sono le casse, cioè ci sono i vari momenti di attività che lei trova in un supermercato normale. E in che modo questo aiuta i ragazzi con disabilità? Beh, in tutto coltivano quelle competenze trasversali che sono necessarie, adesso vengono chiamate le soft skills, che sono necessarie per entrare nel mondo del lavoro, quindi saper lavorare in gruppo, gestire anche le situazioni di allarme, quindi le problem solving. Ma quindi lei ha creato un supermercato, professoressa, sì, in cui i ragazzi con disabilità lavorano? Lavorano, ma non solo, c'è tutto un raccordo con le materie, per cui matematica viene fatta, economia aziendale quando mi fanno il bilancio la fanno, la spesa la fanno nelle lingue straniere, come diritto abbiamo fatto il regolamento naturalmente del posto di lavoro, ma anche tutti i diritti dei lavoratori, c'è un raccordo tutto con le materie e questo è importante. Beh, siete eccezionali, carissimi insegnanti candidati, cioè al di là del fatto che poi riceviate o meno, per noi il vero premio, per noi il Nobel l'avete già vinto. Straordinaria questa passione, questa intraprendenza, come diceva Don Milani. Prima di condividere questa frase voglio farle una domanda, ma andiamo a vedere quella che è la situazione del traffico oggi 31 dicembre sulle strade d'Italia e poi torniamo insieme. 24 mattino. 8:47, ancora un saluto da Irene Zerbini, i due italiani candidati al Nobel dei prof, l'hanno chiamato così, oggi sono nostri ospiti. Io voglio chiederle, professoressa Boscolo, se pensa che quello che lei ha fatto con la creazione di questo supermercato, quello che lei fa, comunque questa attività in generale, se lei la etichetterebbe come politica. Politica nel significato più alto del termine, nel senso quella di occuparmi della cosa pubblica e qual è la cosa pubblica più preziosa se non i nostri ragazzi e il loro avvenire, allora sta facendo politica. Assolutamente, conoscere i giovani, diceva Don Milani, sì, e amare la politica è tutt'uno. Io trovo decisamente politiche le scelte che voi state facendo per cambiare quella che sarà la realtà non solo imprenditoriale, di indipendenza, di mentalità di questi italiani di domani. Sono ragazzi definiti eccezionali, ma sono estremamente normali, perché come ci hanno segnalato i professori sono pieni di potenzialità, basta accendergliele, basta stare ad ascoltare. E saluto Bianca Chiabrando, buongiorno, ciao Bianca. Buongiorno. Bianca è con noi non perché è un'imprenditrice, ma cosa hai fatto tu di particolare per cui sei stata segnalata nel mondo dell'editoria in questo caso? Sì, allora io ho scritto un libro. E quanti anni hai, Bianca? Quanti anni hai scritto il libro? Io ho 15 anni, ma l'ho scritto all'età di 13 anni. E di cosa parla questo tuo libro? Dunque, io quando ero in terza media non ero tanto socievole e me ne stavo molto per conto mio e avevo un compagno di banco molto strano con cui non parlavo spesso e lui era sempre a dormire, un po' apatico e a me incuriosiva tanto e quindi ho incominciato a scrivere su di lui, a scrivere ogni ora le cose strane che faceva. E ho continuato a scrivere e i miei genitori e i miei compagni piaceva molto, ridevano. Quindi diciamo che ho scritto tantissimi di questi rapporti. E rapporti? Perché usi questo termine? Ti sei ispirata proprio? Usavo proprio le ore, io scrivevo ore 8 e non so 45 e poi scrivevo quello che succedeva. Ma cosa ti era ispirata? Che cos'è che ti ha fatto venire questa idea? Io in casa ho tantissimi libri di psicologia e quindi mi sembrava quasi di scrivere un finto trattato psicologico, ovviamente in chiave ironica. E i miei compagni hanno molto apprezzato, hanno molto riso e sono stati molto autoironici in questo caso e quindi mi ha anche permesso di socializzare, di fare amicizie, ancora adesso siamo molto amici noi tutti. E allora sentiamo un estratto di questo libro di una scrittrice di 13 anni, pensate un po', che uscirà per Mondadori da qui a breve. Come si intitola, Bianca? Allora, il caso terzo D, cronaca di una classe irrecuperabile. E lo legge la nostra attrice di prosa che fa la speaker qui a Radio 24, Alessandra De Luca, sentiamo. immaginerete, sono stata tentata più di una volta di mollare tutto. Ma un giovedì, durante l'interrogazione di scienze, mentre spiegavo le differenze tra amebe, batteri, lieviti e altri organismi unicellulari, ho visto Frangia che mi faceva le boccacce e cercava di distrarmi sollevando un cartello con scritto «Secchiona pluricellulare». A quel punto ho definitivamente capito. Dovevo andare fino in fondo. Dovevo dimostrare la mia normalità. Ah, quindi ti davano della secchiona, Bianca? Oh, sì. Molto spesso. E tu hai trasformato questa sorta di condanna, perché è un po' una condanna all'isolamento. Hai sofferto? No. Sofferto è una parola grossa. L'hai girata subito in ironia. Sì, secondo me la cosa migliore è riderci su alla fine, perché senza un po' di ironia non si può andare avanti, soprattutto in queste cose, alle scuole. E cos'è che quando arriva, per una secchiona tra virgolette come te, quando arriva in classe, adesso che scuola fai innanzitutto? Sono al secondo anno del classico. E è un classico musicale, un classico particolare il tuo? Sì. Quindi la musica... è un classico con una sezione a indirizzo musicale in cui ci ritroviamo appunto per suonare tutti insieme una volta a settimana. A Milano. Senti, sì. Bianca, quando entra in classe un professore nuovo, quando hai modo di valutare l'attività di un insegnante, cos'è che te lo fa definire buono, ottimo, insomma dare un voto positivo? Cosa vi aspettate voi così giovani dai docenti? Secondo me la cosa migliore per un insegnante è avere tanta passione per quello che insegnano, perché io quando vedo un insegnante che gesticola, che cerca di coinvolgerti, insomma, capisco che sta tentando di trasmettermi qualcosa e lo apprezzo veramente tanto, e forse è così che bisognerebbe valutare un buon professore, per la passione che mette nel suo lavoro. Cioè, a prescindere dal contenuto? No, chiaramente poi bisogna che sia abbastanza colto e con buone competenze, però secondo me è veramente molto importante anche l'approccio, perché per i ragazzi stare 6 ore sui banchi non è sempre molto divertente, e invece vedere arrivare una persona che invece vuole coinvolgerti e vuole farti stare attento è molto bello, molto... appunto interessante. E voi come la pensate? 800 24 00 24, noi diamo la parola ora agli ascoltatori. Pronto? Pronto, Giulio? Buongiorno. Giulio, buongiorno. È un insegnante? Lei è un giovane? No, non sono un insegnante, però sono molto affezionato ai giovani, anche perché frequento dei giovani che hanno degli handicap molto importanti, ma che hanno dei doni che a volte i grandi non apprezzano perché si sentono superati da questi giovani. Ecco dov'è il problema dei nostri giovani. Il problema dei nostri giovani è che noi anziani abbiamo paura di perdere il potere dando più valore a loro. Fantastico. Beh, questa cosa dell'invidia generazionale, Giulio, forse ha colto davvero nel segno. Grazie, buon anno a lei e a tutti. Prego, i ragazzi che frequenta. Grazie anche a lei, e le faccio un buon anno a tutti i giovani. Buon anno e forza, coraggio. E mi ha tagliato fuori tutto da un colpo. Tommaso, buongiorno, lei da Cuneo. Buongiorno, mi hanno fatto un assist Bianca, la scrittrice, questo signore eccezionale. Cioè? Io ho 67 anni e quello che dico sembrerà molto alla palissiano. Però è vero quello che ha detto di questa invidia dei vecchi verso i giovani, ma secondo me ci sono due dati che, sui quali voi giornalisti non insistete più. E fa bene a sbacchettarci, ma lo faccia in 30 secondi, però, perché stiamo per chiudere. Velocissimo, sì. Il fatto che l'importanza dei geni degli insegnanti, appunto, perché sono questi che permettono ai giovani poi di avere nella vita successo o di avere dei sogni. Quindi è importantissimo che i genitori si comportino in un certo modo, gli insegnanti abbiano appunto la passione, la volontà di farli fare, perché come diceva Rousseau, è vero che l'uomo nasce sano e la società lo rovina, però i genitori, secondo me gli insegnanti, hanno ancora un compito incredibile, e voi dovete insistere più su questo che non sulle cose cattive, che sono sempre una minoranza a mio modo di vedere. Dovete essere più educatori anche voi, questo è il mio pensiero. Tommaso, grazie, grazie. Spero la scrittureranno nei corsi di formazione per giornalisti, perché ci sarebbe bisogno veramente di qualche iniezione di sensibilità come la sua. Noi ne abbiamo avuta tanta oggi grazie ai nostri ospiti. Vorrei concludere assegnando il premio. Daniela Boscolo, Daniele Manni, voi siete i professori candidati a questa sorta di Nobel per l'insegnamento, e chiedo proprio a voi che caratteristiche, se non sarete voi, no? Che caratteristiche dovrà avere questo professore vincitore, visto che anche voi imparerete dagli altri, dai vostri colleghi, professor Boscolo, professor Manni, scusi, professor Manni. Diciamo che più o meno le caratteristiche sono venute proprio fuori, la definite bene Bianca. A proposito, Bianca non è che vuole trasferirsi a Lecce, no? Abbiamo bisogno di persone come lei. Chiusa la parentesi, passione, competenza, voglia di coinvolgere, uso delle tecnologie come strumenti, sfruttare le tecnologie come strumenti per attirare l'attenzione dei ragazzi. E la ricetta invece di Daniela Boscolo, che caratteristiche deve avere un insegnante per meritarsi questo titolo di migliore, diciamo? Deve saper guardare negli occhi i suoi ragazzi, quelli che ha di fronte, e saper interpretare il loro sguardo. Per me è sufficiente questo, avere una passione per questo. La Global Teacher Prize Academy in marzo sceglierà il vincitore tra una rosa finale di 10 nomi. Naturalmente noi a Radio 24 e non solo vi riporteremo chi avrà vinto, ma al di là dello scettro rimane uno dei lavori, dei mestieri, delle professioni, chiamatela come volete, più importanti e più cruciali del mondo. Ha segnato la vita di tutti i nostri insegnanti. Noi ci fermiamo per oggi e ci fermiamo per quest'anno, in questa 24 mattino. Abbiamo voluto dedicare quest'ultima puntata proprio ai ragazzi, perché ci dicono tra l'altro le statistiche di pentiti, già giovani sono pentiti, a 18 anni se tornassero indietro farebbero scelte diverse anche a livello scolastico rispetto a quelle che fanno. Nel nostro paese c'è un impoverimento, non pensiamo subito alla crisi, c'è un impoverimento di capitale umano. Pensate che c'è stata una contrazione della popolazione diciannovenne negli ultimi 30 anni del 40%. Abbiamo 389.000 ragazzi in meno. Allora, quelli che ci sono bisogna veramente coltivarli bene. La passione è stata la ricetta che è emersa, è l'elemento fondamentale. Noi di Radio 24 vogliamo salutare tutti quelli, non solo giovani, che si apprestano a concludere l'anno seguendoci, un pensiero anche agli anziani che lo trascorreranno da solo questo 31 dicembre, un pensiero a tutti quelli che ci hanno permesso di portare a termine questa trasmissione: Anita Panizza, Alessandro Longoni, Peter Bescapè in regia, autori, registi, tutti tecnici, da Irene Zerbini l'augurio di un 2015 che vi ritrovi esattamente così, non cambiate. Noi ci risentiamo domani mattina alle 9, però auguri a tutti.